La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Oh, Giuseppe Veca è indignato. In una sua recente trasmissione ha parlato molto bene dello scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del premio Strega con Canale Mussolini. Non ho letto il romanzo, ma ho visto una sua intervista al GR3, conservata per mia pignoleria, nella quale l'autore pronunciava le testuali parole: eravamo un po' poveri, perché se stavamo bene in Veneto eravamo rimasti là, senza usare condizionali, congiuntivi e via dicendo. E poi parla anche di un altro momento in cui l'ha visto in televisione. Allora, io sono veramente sbalordita. È possibile non ti sia mai accorto che c'è una grande letteratura, a partire da Céline, ma attraverso Pennacchi e altri, che mettono in onore la lingua parlata facendone letteratura? A parte questo, ha ragione Gianluca Nicoletti quando dice che siamo dei mutanti, ovvero prima viene l'opinione e poi il fatto, perché col tempo che ci hai messo ad ascoltarlo alla radio, a registrarlo, a catalogarlo e poi a vederlo anche in TV, a commentarlo e scrivermi, ma ci avresti messo molto meno tempo a fare un salto in libreria e a sfogliare un suo libro. Io penso che Pennacchi sia uno scrittore immenso, perché ho letto le sue pagine, però se non le avessi lette e avessi dovuto giudicarlo da come appare, dalle cose che dice, io lo sospetterei di poesia proprio per le cose che a te paiono disdicevoli, poco letterarie. Ma cosa credi tu che sia la letteratura? L'abito della festa? O i bottoni tutti in ordine, senza nessuno che sta per staccarsi? Ma lo sai tu chi erano i grandi scrittori del passato? Come quelli del presente? Come i santi, che quando si acquetano nel calendario non danno più fastidio, ma in vita erano tutti dei freaks, dei perturbatori. Sono 6 anni che vivo una storia importante con un uomo di 48 anni, io ne ho 52, per metà. Lui vive in campagna e fa 2 lavori, contadino e autista di bus in città, che lo tengono occupato 18 ore al giorno, feste comprese. La sera crolla, con tutte le non conseguenze di una normale vita di coppia. Ma non è il peggiore dei mali. Vive di fianco alla casa del padre, che è sempre presente, pranzo e cena. Ma il fatto è che è abituato a comandare. Ha 83 anni e ancora fa ogni cosa nei campi. Ha cresciuto un figlio completamente dipendente. Credo che i problemi sessuali siano perché suo padre è come se fosse a letto con noi. Io ho un lavoro indipendente e sono spesso via. Per stargli più vicino gli ho proposto di rinunciare a parte del mio lavoro, che io amo, per intraprendere una nuova attività nella sua azienda agricola. Il padre non vuole, dice che l'agricoltura non dà pane. Allora ho detto sposiamoci, ma era forse più una sfida. E il padre dice che ormai quelle sono cose che si fanno da giovani. Insomma, ho preso il mio solito affitto nella città in cui più lavoro e vicino al mare. E questo a scapito della nostra vicinanza e del nostro rapporto. 3 giorni li passo con lui in campagna e il paparino e 4 giorni in casa mia e col mio lavoro. Ma non mi sento né di qua né di là, ho paura di lasciare i miei anni migliori in un rapporto che non ha futuro e non ho il coraggio di chiudere. Perché? Perché lui è speciale, buono, positivo, mi fa ridere, ha dei valori forti e simili ai miei, anche se emula suo padre. È generoso e con una forza di volontà incredibile. Si rende conto dei miei problemi e di tutto, ma non è in grado di fare un'altra vita, per portargli rispetto, perché ha paura. Non si riesce a fare l'amore. Ha problemi di ogni tipo. Abbiamo cercato di avere un figlio con la fecondazione assistita 4 anni fa, ma non è andata. E adottare non vuole. Il padre in realtà è contrario perché sarebbe di un'altra razza. Sono al capolinea, ma l'idea di chiudere questa storia, che potrebbe essere bellissima, mi fa stare tanto male quanto questa distanza. S. Cara S, tu lo sai che non c'è uscita, perché non sei mai veramente entrata nella vita di questi 2 uomini che è complementare. Padre e figlio non esistono l'uno senza l'altro e chiunque è un estraneo. Scusa se ho tagliato parte della tua lettera dove spieghi nel dettaglio tutte le ragionevolissime proposte che hai fatto al padre e al figlio per mettere su qualcosa insieme e per condividere anche il lavoro. Tu non ti sei posta come una che volesse insinuarsi fra di loro e dividere il figlio dal padre, ma sempre come volonteroso membro aggiunto, e il padre ha sempre detto no, no e no. Perché a te che dice no, a te tutta intera, non alle tue proposte. Non ti vuole tra i piedi, è evidente. Sai, è come se tu fossi innamorata di un bambino di 8 anni. Lui è il tuo uomo, che però mai è diventato un uomo. E difatti non si riconosce neanche una sessualità. Il vecchio è un padre padrone, ma il figlio è un figlio figlione. È uno che non vuole saperne di essere responsabile e ci sta benissimo fra le braccia onnipotenti di questo padre dominatore. Tu cinica non sei, ma anche se lo fossi e sperassi nella prossima ripartita del vecchio valetudinario, credo che staresti fresca. Lui è una roccia, lavora nei campi a tempo pieno, ma non è per questo che è immortale, sai. Secondo me è immortale perché tiene lo scettro saldamente in mano, perché regna sul figlio ed è la sottomissione del figlio che gli dà una salute invincibile, una instancabile voglia di andare avanti. Questo padre non diventerà mai vecchio perché è un figlio bambino e finché l'altro non deciderà nemmeno il colore della cravatta, lui sarà sempre il più giovane di tutti voi. Ma tu gli vuoi bene così com'è, col suo ingannevole aspetto di 48enne che in controluce mostra i pantaloni corti, le ginocchia sbucciate e in mano ha un Lego di tutti i colori ed è l'unica cosa con la quale può costruire, una sagoma con Lego, visto che Lego apostrofo, L apostrofo ego, lo ha deposto nelle mani del padre. Sai qual è il guaio? Che tu faccia dei progetti di vita in comune. Io non credo nemmeno che sia necessario lasciarlo. Prima di lasciarlo tu devi sapere, lo sai bene, che ti mancherebbe, perché è diventato anche il tuo bambino. E maggiormente perché non c'è sesso. Ci sarebbe un'alternativa, vivere più liberamente questo affetto, vedendosi ogni tanto, invece che stringere il legame, lasciarlo fluttuante, come un aquilone, un lusso, un giro nel Kinderheim. Non c'è soluzione. Tu vuoi una casa da grandi, lui sta bene all'asilo. O ti arrendi alla straziante poesia di una situazione anomala, o ti trovi un uomo cresciuto, se è proprio quello che ti piace. Io non so se avete visto in giro, cioè intendo nelle librerie, un piccolo amichevole libro con la sagoma del gabibbo in copertina, che ha quell'aria da barba papà, no? Che si potrebbe trasformare in una balena, in un aeroplano. E questo libro ha un titolo trucemente fiabesco, Il ripieno del gabibbo. E l'ha scritto Antonio Bozzo, l'editore è Zandonai, sottotitolo 10 anni vissuti televisivamente. Antonio Bozzo attualmente è il direttore della pagina culturale milanese del Corriere della Sera e lo conosco da tanti anni fa. Quando scrivevo per Amica e lui era il redattore capo della cultura e lui e un altro amico nostro, Paolo Cavaglione, che poi diventò direttore di Topolino, e loro due li chiamavamo i Sunshine Boys, citando il film dei Billy Wilder, che era su una coppia di amici molto vecchi, solo che loro erano due pezzi di giovanotti, Cavaglione col barbone, Antonio Bozzo, questo grosso orso milanese, cordiale, erano pieni di idee, scoppiavano di idee, bisognava fermarli. E mi ricordo Antonio sempre coraggiosamente, ariosamente, aveva un grande senso del romanzesco e dell'umorismo. Io ho scritto per Antonio poi quando è stato direttore di TV7 del Corriere della Sera e ho per lui quella speciale gratitudine che io sento profondamente di quando si lavora bene con qualcuno, come anche Gloria Guerrera e Alessandro Chiappini con cui facciamo questa trasmissione. Cioè le persone che non mettono ostacoli, anzi mettono ingegno, mettono entusiasmo e poi la famosa onestà intellettuale, no? Questa espressione che ormai detesto, che è nominatissima specie dai disonesti che ce l'hanno sempre in bocca come un rametto fiorito. La detesto, ma la pronunzio in onore di Antonio Bozzo, che adesso ho il piacere di avere al telefono e gli chiederemo qualcosa di cos'è questo ripieno del gabibbo. Antonio? Sì, sente, buongiorno a tutti. Cos'è questo ripieno del gabibbo? Perché è bello, perché questa il, è un'idea... Il ripieno è l'esatto contrario, cioè è il vuoto del gabibbo, cioè nel senso che il gabibbo è praticamente il simbolo della televisione, cioè il vuoto che qualche volta però viene illuminato anche da alcuni ripieni. Questo libro raccoglie alcuni dei miei editoriali, quelli che io vanitosamente ritengo i migliori che io abbia scritto per questo giornale che adesso non c'è più e che è stato per 10 anni il supplemento televisivo del Corriere, che fotografava per la televisione a cavallo del millennio, una televisione che è oggi in forme diverse, con declinazioni web, Sky, eccetera, eccetera, è presente ancora nei suoi mostri, nei suoi personaggi. Quest'idea del tuo libro è crepuscolare e nello stesso tempo salvifica, perché poi sfrecciano questi fantasmi che sono fantasmi del passato e fantasmi di oggi. Questo è dal tuo libro Postulato. Giorgio Panariello, al suo ritorno in video, dopo un'assenza durata 5 anni, ha argutamente osservato che in TV è cambiato tutto. Allora c'erano Porta a Porta, Il Grande Fratello, C'è Posta per Te. Ne consegue che chi scriveva di televisione fino a pochi anni fa può benissimo illuminare a giorno, con le sue riflessioni, anche gli scenari attuali. Mi sono molto compiaciuto, oltre che delle arguzie, anche di certe profezie. Il mio sguardo è sulla televisione, non è quello del critico televisivo, è quello di un affascinato, uno sguardo affettuoso, però allo stesso tempo con delle note sarcastiche e critiche, perché effettivamente quello che ci passa sotto gli occhi in questo acquario che è la TV permette qualunque audacia. E quindi io mi sono molto divertito quando dirigevo quel giornale e continuo a divertirmi tuttora all'interno del Corriere, per cui è un mio approccio giocoso al lavoro, questo credo che sia fondamentale per durare a lungo, insomma, per lavorare, per divertirsi. Questo libro lo considero anche un personale mettere i puntini sulle i e finire un periodo. Io attualmente, questo lo dico, ma non è una posa, non ho la televisione, cioè la guardo perché al Corriere della Sera vedo programmi, le televisioni sono accese, ma quando raggiungo casa mia è un luogo libero dalla televisione, c'è la radio e basta. Tu sei sempre stato molto cordiale ma schivo. Cioè, sei il tipo che nelle foto si mette un po' di lato per non coprire gli altri con la sua grossa mole, non ha mai avuto la smania di apparire, sempre molto divertito dietro il quinto o a metà. Forse è semplicemente timidezza, ma si può anche prendere e spacciare come posizione culturale, insomma, un po' quello della lateralità, della perificità e del vedere le cose un po' in maniera eccentrica e non direttamente, secondo il vecchio principio che i due punti non sono uniti da una linea ma da un arabesco, per cui si può anche svisare sul tema. E poi ho trovato delle perle anche di questi ricordi che vanno assolutamente salvati, come la battuta di Funari, che considero a tutt'oggi, e anche tu lo so, un grandissimo uomo di televisione. Sì, grandissimo. Era un vero anarchico, e questo è un gran titolo di merito e anche di esclusione, che dice la miglior vendetta è il denaro. È vero. Senti, che cosa ti è più caro di questo libro o ti impressiona di più retrospettivamente? Il trattare della bellezza femminile che è passata e si è verificata, si è incarnata in quel tipo di televisione. Mi ha commosso rivedere come ero riuscito a vedere alcune bellezze nel loro dispiegarsi, nel loro nascere, restando fuori dal darsi di gomito, dal dire guarda che bella ragazza, guarda quanto è scosciata, quanto è questo, quanto è quest'altro, ma proprio vedere l'effimero della bellezza che passa attraverso la televisione, che qualche volta appunto prosegue nel tempo e a volte no. Perché poi tu puoi essere un distruttore appassionato, però anche un grande madrigalista. Per esempio, qua dentro ci sono delle difese di Michelle Hunziker, quando era pochissimo considerata, oppure una bellezza che ci ha sempre fatto piangere, Paola Saluzzi. Sì, sì, sì. Magari uno poi cambia idea nel passare degli anni, non le trova più così con quella potenza che possono avere, ma all'epoca avevano davvero una grande potenza. Paola Saluzzi aveva quella capacità di catturare con una forma di seduzione elegante lo spettatore, che non poteva non essere registrata. Eppure spesso e volentieri magari il critico televisivo vero e proprio non guarda questo tipo di spettacolo, ma guarda magari il contenuto che c'è dietro e a volte bastona. Beh, gli dèi oscurano quelli che vogliono perdere. Esatto. Bene, grazie Antonio. Allora ti saluto guardandomi Il ripieno del Gabibbo, 10 anni vissuti televisivamente. Ciao. Maupassant è uno dei pochi che a scuola non sono riusciti a farci odiare. Quanti ne abbiamo dovuto recuperare in seguito, no? Da liberi, dopo gli studi, non so, Leopardi, Alfieri, Nievo. La maggior parte degli autori che ti hanno insegnato a scuola poi te li devi riguadagnare da solo dopo lo scempio che ne hanno fatto gli insegnanti, se non si è fortuna. Invece Maupassant no. Era subito nostro, mi ricordo, lo capivamo anche a 12 anni. A scuola ce lo facevano leggere, ma solo quello che loro consideravano adatto, ovvero adatto voleva dire che non ci fosse ombra di sesso. E così, per preservarci dal sesso in Maupassant, ci mettevano in mano i suoi racconti più tremendi, non so, come Le Petit Fu o Pierrot, due storie su uno dei peccati più turpi, che è l'avarizia. Questa avarizia che arriva al delitto. Per esempio, in breve, in Le Petit Fu c'è un uomo che compra un podere da una vicina già vecchia, e a patto che ce la lascerà vivere fino alla morte e intanto le passa un vitalizio. Però la vecchia non muore mai. La vecchia gode di una salute esasperante e allora lui aspetta finché non ne può più. E allora la induce all'alcolismo e la povera Madame Magloire schiatta la svelta. Pierrot da ragazzini ci faceva un effetto ancora peggiore, straziante, la storia di questa donna che vuole essere caritatevole con un cane e poi per avarizia finirà per farlo morire di fame. Ecco, adesso vi leggo un raccontino di quelli che non ci fecero leggere a scuola, su un giovane prete. Si intitola Il salto del pastore e del perché il luogo si chiama in questa maniera. Si narra che un tempo quel villaggio fosse retto da un giovane prete austero e violento. Era uscito dal seminario colmo d'odio contro quelli che vivono secondo le leggi naturali e non seguendo quelle dettate dal suo Dio. Inflessibilmente severo verso di sé, si rivelò di un'intolleranza implacabile nei confronti degli altri. Una cosa soprattutto eccitava in lui l'ira e il disgusto, l'amore. Forse, suo malgrado, era anche torturato dall'angoscia di appetiti insoddisfatti. Tutto quel che aveva attinenza con la carne lo indignava, lo metteva fuori di sé. E le sue prediche violente, piene di minacce e di furiose allusioni, facevano sghignazzare le ragazze e i giovanotti che si lanciavano occhiatine di soppiatto da una parte all'altra della chiesa. Una volta si infuriò fino a perdere la ragione, e per niente. Era andato a visitare un malato. Appena entrato nel cortile della fattoria, scorse un gruppo di bambini che facevano cerchio attorno alla nicchia del cane. Guardavano con curiosità qualche cosa, immobili, con un'attenzione concentrata e muta. Il prete si avvicinò. Era la cagna che sgravava. Nella cuccia, cinque piccoli si agitavano accanto alla madre, che li leccava con tenerezza. E proprio nel momento in cui il curato allungava la testa sopra quelle dei bambini, apparve un sesto cucciolo. Tutti i monelli, allora, eccitati dalla gioia, si misero a gridare «Un altro, un altro!». Per loro era un gioco naturale in cui non c'era niente di impuro. Contemplavano quella nascita come avrebbero guardato le mele cadere dall'albero. Ma l'uomo in tonaca nera si sentì contrarre dall'indignazione e, persa la testa, alzò il suo grande ombrello azzurro e si mise a colpire i bambini. Fuggirono a gambe levate. Allora lui, solo di fronte alla cagna che partoriva, la picchiò con tutta la sua forza. Incatenata com'era, quella non poteva scappare. E siccome si dibatteva gemendo, egli le montò sopra, schiacciandola sotto i piedi, le fece mettere al mondo l'ultimo piccolo e la finì a colpi di tacco. Poi lasciò il corpo insanguinato in mezzo ai cuccioli, goffi e pigolanti, che già cercavano le mammelle. Una sera di maggio, mentre tornava da una lunga passeggiata e seguiva la scogliera per raggiungere il villaggio, fu sorpreso da un furioso acquazzone. Nessuna casa in vista, e dappertutto quella costa nuda che il rovescio crivellava con le sue frecce d'acqua. Il vento fischiava, soffiava, stendeva a terra il grano giovane e scuoteva il prete che grondava tutto. Lo raggiunse una raffica così violenta da impedirgli di andare avanti, e all'improvviso, vicino a uno stazzo per le pecore, scorse la capanna ambulante di un pastore. Era un riparo e vi si precipitò. Giunse così fino alla piccola capanna di legno montata su ruote che i guardiani del gregge si trascinano d'estate di pascolo in pascolo. Il prete stava per entrare, quando intravide nell'ombra una coppia di innamorati che si abbracciavano. Allora ad un tratto chiuse la porta e la fissò. Poi, aggiogandosi alle stanghe, curvando la magra persona, tirando come un cavallo e ansimando sotto la tonaca di panno inzuppata, si mise a correre, trascinando verso il pendio mortale i giovani che aveva sorpreso abbracciati e che adesso picchiavano coi pugni contro le pareti, certo persuasi che fosse lo scherzo di un passante. Quando fu sulla cima, mollò quel rifugio leggero che si mise a rotolare lungo la costa in discesa. Accelerava la corsa, trascinato a folle andatura, sempre più presto, inciampando come una bestia. Un vecchio mendicante se lo vide passare davanti, in un balzo sulla testa, e sentì grida terribili che provenivano da quel forziere di legno. A un tratto, la violenza di un urto gli strappò una ruota, e si abbatté sul fianco, e si mise a ruzzolare come una palla, come dalla vetta di un monte rotolerebbe una casa sradicata, e poi, sull'orlo dell'ultimo burrone, fece un balzo, finché, cadendo sul fondo, vi si schiantò come un uovo. Li raccolsero tutti e due gli innamorati, maciullati, pesti, ma stretti, sempre, nel terrore come nel piacere. Il parroco rifiutò l'ingresso in chiesa ai cadaveri e la benedizione delle bare, e la domenica, nel sermone, parlò con violenza del settimo comandamento di Dio, minacciando agli innamorati un braccio vendicatore misterioso e citando l'esempio terribile dei due disgraziati uccisi durante il peccato. Mentre usciva dalla chiesa, due gendarmi l'arrestarono. Un doganiere aveva visto ogni cosa. Fu condannato ai lavori forzati. Il contadino che mi raccontò questa storia aggiunse: «Io l'ho conosciuto. Era un uomo in gamba, ma non gli piaceva la monta». Sharmanca, sharmanca. Mezza umanità è disgustosa, l'altra metà la ammira. Nell'amore esclusivo, escluso è l'amore. Quando si sta male, si ama la moglie. Quando si sta meglio, l'amante. Quando si sta benissimo, non si ama nessuno. Ricordo le mie vittime come persone cui ho voluto molto bene e con le quali ho passato dei bei momenti. La disperazione, la più fascinosa delle amanti, ma non la vorrei per moglie. L'altro conosce meglio di noi il suo torto e sogghigna all'idea che prima o poi saremo tentate di spiegarglielo. Homo homini lapsus. Non vantarti delle cose che hai visto. Esse hanno visto te. Disprezzarsi è prendersi maledettamente sul serio. Inferno è stare un giorno in paradiso e un altro chissà dove. Per fare l'esperienza del nulla occorre essere qualcuno. Cristo è morto per noi, ma Jack lo squartatore ha ucciso al nostro posto. Il disprezzo va meritato. Sia felici di non averne motivo. Non c'è assassino che ci risparmi la sua teoria dell'amore. L'amore non salva, ma perlomeno annienta. Ciò che non nasce, uccide. Si dice il vero per non dire il bello. Diventiamo intelligenti per capire quanto siamo imbecilli. Non commettere atti impuri e vedrai che noia. Se una parola ci sfugge, è salva. Quando sarai sicuro della tua strada, prendine un'altra. La tragedia della doppia vita è che una assomiglia spaventosamente all'altra. Non fare quello che uno come te farebbe. I senza peccato passano il tempo a scagliare pietre. Essere il più sovraffollato dei luoghi comuni. Consigliare e fare di un criminale un sicario. Da quando lo si chiama nulla, il niente si è montato la testa. Lavata, l'offesa risplende. La morte di Dio suscita ammirazione, ma quella di un cretino fa sognare. Confido in un'eternità breve. Umberto Silva, che è l'autore di questi aforismi, nella sua lunga vita, che è lunga quanto la mia, è stato critico letterario, regista di cinema e di televisione, attore, non so, è apparso in grandi film come Vizi privati, Pubbliche virtù di Miklos Jancsó e in Partner anche di Bernardo Bertolucci. Io mi ricordo che da giovani ci conoscevamo e ci frequentavamo un po' perché avevamo degli amici comuni, però non eravamo amici. Quando apparve Silva in Vizi privati, Pubbliche virtù, dove faceva il prete, un prete lusco e sfuggente, io dissi: ah, proprio la parte giusta per lui. Ma non che fossimo nemici, ma non ci fidavamo l'uno dell'altro. Lui era sardonico, diceva certe battute, con quell'istante di ritardo, sempre parlando a bassa voce, con questa intonazione solenne, un po' ecclesiale, ed erano battute micidiali. Era molto colto, ma allora ne faceva un'arma contundente, e invece che uno strumento di ricerca di piacere, come è stato in seguito. E poi allora a me piacevano solo gli estroversi. Era un mio vistoso limite. La biografia di Umberto Silva si divide in due parti. Fino ai 20 anni è stato molto ricco e ha creduto di esserlo. Barche, ville, alta società. Poi un giorno suo padre firma l'ultimo assegno in bianco e muore. E Umberto e la sua famiglia si accorgono di essere rovinati. vengono cacciati all'istante dal paradiso terrestre e da quel mondo d'oro il Silva si trova nel mondo di latta, della necessità. Lui dice che da ricco era un giovane cretino e il contatto con la realtà, ancorché duro, è stato la sua salvezza. Questo dice lui di sé. Lui mostra subito un notevolissimo talento come regista e come attore e scriveva anche allora, ma in modo involuto. A me sembrava negato per la scrittura e lo portavo ad esempio proprio di come non bisognava scrivere. Poi scompare da Roma, ci perdiamo di vista senza rimpianto reciproco, credo. Dopo un po' di anni lo rivedo. Un altro Silva, sorprendente, umanissimo, non solo amabile e sempre più spiritoso e non solo per giustiziare qualcuno ma anche per spargere buon umore, per goderne lui stesso. Era diventato un dandy. Oh, non nel senso corrente e impreciso in cui viene inteso questo termine, niente a che fare con come ci si veste. Dandy, secondo la definizione che lo stesso Silva aveva usato nel parlare di uno scrittore in una generosa prefazione di un suo libro. È un dandy, un vero dandy, ossia una persona che detesta gli snob e i moralisti, tutti coloro che cercano luce dall'altro, che gli stanno addosso per fare luogo comune. È audace il dandy, brilla di luce propria, e se si interessa dell'altro è per farne risaltare il lato migliore, per evidenziarne la differenza, la particolarità o addirittura per suscitarla. Intanto in questi anni di assenza almeno della mia vita, Umberto Silva era diventato psicanalista e si era sposato con Sonia Ferro, psicanalista anche lei, lacaniani entrambi, ma soprattutto Silvani e Ferriani. Insieme hanno fondato la Società Psicoanalitica di Padova, ma il grande e vero terremoto, secondo me, era che lui aveva incontrato per la prima volta una vera compagna nell'avventura esistenziale e cognitiva. Non conosco un modo più semplice per dirlo. Aveva conosciuto l'amore e in questo caso anche fervore di lavorare insieme. Umberto e Sonia si erano accolti a vicenda ed era accaduto un fenomeno che mi lasciò e mi lascia sbalordita, di cui non conosco altri esempi. Umberto Silva aveva imparato a scrivere. Dire imparato è proprio sbagliato. No, non si impara. Non è che Silva avesse affinato lo stile, che si fosse evoluto. No, no. Era la scrittura di un altro. Di colpo, come un pezzo di cornicione, gli era caduta addosso la scrittura. Il ritmo, pensiero fatto musica. Poi snella come una canna d'argento, avrebbe detto Pound. Piena di un umorismo sommesso, ma anche scintillante, a volte canagliesco o santo. Insomma, umorismo per tutti i gusti, come dice il diavolo di Hoffman, spalancando il mantello e mostrando i suoi elisir. Il primo Silva scrive per gli altri e ti viene quella noietta. Il secondo Silva scrive per sé. Il giovane intellettuale ambizioso è diventato, inaspettatamente per tutti e massime per se stesso, poeta. Ha imparato a ridere di sé. E adesso sì che la tragedia diventa solenne. Con Sonia Ferro vivono in questa piccola repubblica del pensiero a Padova, dove formano i giovani psicanalisti e si occupano dei pazienti, e fanno teatro e fanno musica, e pubblicano i loro libri in casa, nel senso che hanno anche una casa editrice, il Notes Magico, che è quello che appunto ha pubblicato anche gli ultimi aforismi, l'uomo che scrive nella notte. C'è Umberto Silva in linea. Umberto, senti, ho un po' parlato di te. Vorrei chiederti questo. Cosa davvero pensi dei tuoi aforismi e di quelli altrui? Dei miei aforismi adesso penso abbastanza bene, ma ti ho voluto che ne tagliassi 2-3 mila e ne lasciassi 150. Perché un solo aforismo abbaccato... infetta tutti gli altri. Sì, infetta tutti, getta un sospetto terribile. Dice... guarda lettore che costui non è un vero scrittore di aforismi, è un vanitoso, perché gli scrittori di aforismi sono vanitosi per costituzione, perché pensano che un loro aforismo sia eterno, che un aforismo è un chiodo della croce, è qualcosa che resta di sacro e così via, no? Il 99,99% degli aforismi non sono che pensierini, luoghi comuni spacciati per aforismi. Ma è vero, se prendi Oscar Wilde, per esempio, alcuni sono davvero fulminanti, altri sono meschini. Sì, sono luoghi comuni, travestiti così brillantemente. Probabilmente la vanità di Oscar Wilde gli ha impedito di cancellarli. forse se fosse vissuto di più a un certo punto della vita li avrebbe cancellati, avrebbe lasciato solo la creme della creme. E quindi cosa ho fatto in questi 10-20 anni? Ho spiato i miei aforismi, la notte in particolare, no? Tagliandolo, ogni tanto lo tagliavo con grande soddisfazione quando ne beccavo uno da eliminare. Da giustiziare, da vent'anni. Ne ho giustiziati migliaia, ma ti rendi conto? Sono uno stragista, un assassino di aforismi. Beh, per far vivere gli altri, perché poi è vero, quando dici Oscar Wilde, quelli bellissimi fanno poi risaltare la pochezza degli altri. Eh sì, assolutamente, guai, basta uno solo baccato e alla fine, anche perché l'aforisma ha l'ambizione forsennata di annullare tutti i libri, no? Di dire guardate è inutile scrivere 5.000 pagine, e io con una riga rendo superfluo tutte le biblioteche. Oh, la bibliografia di Umberto Silva è lunga un chilometro, da Ideologia e arte del fascismo, un Mazzotta 1973, poi Imbecillità e morte, e agli ultimi, di cui voglio ricordare Dio è vivo, Santità e Solo le cameriere si innamorano, sì. Che si riferisce a una battuta di Gianni Agnelli, sì. Ci si innamora 20 anni, dopo solo le cameriere si innamorano, una frase sì. Snob e classista, sì. Come direbbe Giorgio Caproni traducendo Céline, da far venire i riccioli. E tu dici che è detta solo per invidia. D'altronde tu sei vissuto in un mondo antico, cioè nel più fondo Novecento, come me, che per certe cose è molto simile all'Ottocento, quando la cameriera era una vestale senza diritti che immolava la sua vita alla famiglia dei padroni, perché tali erano, che da vecchia veniva cacciata di solito senza pensione, ma che da giovani avevano rappresentato la grande epifania della femminilità per i ragazzi della famiglia, spesso il primo amore. Sì, dunque, sono andato agli anni 50, che erano gli anni della mia prima adolescenza, perché sono gli anni che sono stati più dolorosi per me, ma laddove c'è dolore c'è scrittura, ti lascia comunque delle ferite irrimarginabili ma anche splendenti. Penso in quegli anni veramente il dolore regnava sovrano, perché i miei genitori erano fuori di testa e non c'era nessun appiglio reale, era tutta allucinazione, follia. E lì queste cameriere furono dei pilastri, furono loro a tenere in piedi, no? Questa famiglia che faceva quattro parti, che barcollava, venivano dal nord, venivano dall'estremo nord, venivano dal Friuli, no? Sembrava che la grande città dovesse inghiottirle e invece erano loro a dare un senso a questi ricchissimi che però non avevano testa, insomma. Loro sì che avevano una morale, una forza d'animo incredibile. Nel libro erano le uniche che ti consideravano, le uniche che ridevano delle tue... Le uniche che ridevano con me, infatti gli dedicavo le poesie, no? Le uniche che si accorgessero poi di te. E forse anche le uniche che mi amassero, no? Questo nell'infanzia, poi nella prima giovinezza evidentemente sorge qualcos'altro, sorge anche i primi desideri per queste camerierine. La prima donna di cui mi innamorai fu a 9 anni di una sguattera, no? Rubavo i gioielli di mia madre per darglieli a lei. Questo fu il mio primo amore, dedicai una poesia, adesso gliel'ho dedicata, allora ancora non scrivo poesia, oppure si scrivo dei versi un po' sgangherati, quella, ma adesso l'ho dedicata a una poesia, se vuoi te la leggo un pezzettino. Sì, sì, leggi la poesia che è dedicata al cameriere da fanciullo. Avevo 16 anni, soprattutto ero di una buona famiglia milanese che un tempo fu spagnola, mora, ebrea. Comportava tra l'altro una camerierina che mi lustrasse le scarpe finché fossero diventate lucide, splendenti. Poteva anche con un cenno invitarmi nella sua stanza. Timoroso mi infilai sotto le coperte, vestito dalla testa ai piedi. Il cuore batteva forte, Dio mio, mi toglierà tutto, che altro? Nulla lei tolse, rapida, mi slacciò i bottoni, il bel visino, tuffando come un martin pescatore, afferrò il pesciolino che divenne un falchetto, la sua bocca, il pesciolino dalle morbide labbra, mentre attonito guardavo nelle mie scarpe le punte lucidissime, riflettere l'infinita metamorfosi di uomini, animali, cose, sogni, quale mai un ragazzo pensieroso di buona famiglia e antichi onori avrebbe pensato di incontrare a 16 anni in un letto servile, nella stanza disadorna della casa, quella che gli dèi, mi si diceva, mai avrebbero visitato. Invece erano tutti lì ancora, sono lì, e lì io sono, in quella stanza dove pesci, uccelli moltiplicano baci in liturgie pagane, cristiane, musulmane. Il rogo eterno di Gerusalemme illumina il seme che di bocca in bocca vive. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ciao Barbara, sono la ragazza che ti ha scritto in Facebook. Ho 23 anni e circa un mese fa ho conosciuto un uomo di 35 anni. Il martedì e il venerdì lui frequenta il locale dove mi ritrovo con le mie amiche e la compagnia dei genitori di una di queste di cui lui fa parte. Lui convive, se così si può dire, con una ragazza con cui ha un bambino di 20 mesi. Solo che avendo un lavoro sia lei che lui a Milano e lui nelle mie zone, si vedono solo il fine settimana. La prima sera che ci siamo visti c'è stata immediatamente attrazione e anche sincerità sulla sua situazione fin da subito. È gentile, mi offre da bere, mi abbraccia, si mette vicino a me e cantiamo insieme. La volta dopo ci siamo baciati. Successivamente, di nascosto, ci siamo trovati dopo la serata, da soli, e non abbiamo ancora fatto sesso o amore, ma è mancato poco. È stato chiaro, la cosa funziona, ma comunque deve rimanere nascosta. Mi ha parlato di lei, che lo controlla moltissimo, e per questo motivo io non posso avere il suo numero. Io per ora ho sotto controllo le mie emozioni e non ne sono innamorata. Da questa cosa ne traggo il massimo piacere, ma d'ora in avanti come devo comportarmi? Grazie per il tuo aiuto. Un abbraccio, Federica. Senti, dalla tua descrizione questo giovanotto sembra il più comune dei lumaconi di discoteca. Cioè, uno che parte mettendo il freno a mano. Non è una gran partenza, eh. Uno che mette subito avanti la sua donna. Ancora neanche avete fatto l'amore? Già, c'è questo fantasma ben rassicurante per lui fra voi. E il fantollino di 20 mesi. Più che per sincerità, per farti capire subito che non si può impegnare. Scusa, ma che uomo è uno che corteggiando una donna per prima cosa dice «Lei mi controlla moltissimo»? Ma vuol dire che lui si fa controllare, che la usa come antidoto per le pretese delle altre che va conquistando. Ora, se c'è attrazione da parte tua, non saranno certo due paroline mie che te la fanno passare. Ti piace, queste cose non si discutono, però basta che tu non ti illuda e che sappia che se ti innamori cadrai, come un milione di altre, in questa trappola antichissima, sempre uguale. L'altra esiste e sarà la scusa del farfallone per mollarti appena stufo o appena ci sarà una pretesina anche minuscola da parte tua. Come fai a fidarti di uno che non ti dà il numero di telefono, ma però è il tuo? Ma tu pensa com'è volgare. Tu sei già nelle sue mani. Intanto è già stabilita una regola. Sarà lui a decidere quando chiamarti e quanto farti patire nell'attesa. Insomma, è come partire per una corsa con una gamba rotta, in attesa di farsi rompere pure l'altra. Tempo fa mi sono rivolta al medico. Sono sposata, ho due figli piccoli. Ci sono tornata e ho continuato, ma non come medico. Andavo da lui sollecitata da lui come uomo. Tanto che un giorno gli ho detto che mi piaceva. Speravo che lui mi dicesse che non era il caso. Anche lui è sposato. Invece ha detto che gli piacevo anch'io. E abbiamo fatto l'amore. È stato bellissimo. Con mio marito non siamo mai andati d'accordo a letto. Ci vediamo di nascosto. Ci telefoniamo. Mai è stato così bello con mio marito. Non mi era mai passato per la mente di tradirlo. Cosa mi consigli? Devo continuare a vederlo? Valeria. Questo tuo racconto, Valeria, è un quadro naif di rara efficacia e tenerezza. È una storia qualsiasi. Lei va dal medico, gli confessa il suo amore, diventano amanti. Ma la semplicità ingenua dei personaggi è rara, soprattutto nella tua ultima domanda. Cosa mi consigli? Devo continuare a vederlo? Vittoria, ma come ti viene in mente di chiederlo a un altro? Di pretendere che qualcuno si incunei nella vostra storia appena nata, nel momento più acceso, quando si è in due contro tutti, quando ancora i cornuti non sanno e le si ama di più per questo. Il momento magico in cui tutto è erotismo, il momento della presa in giro dell'universo. Cosa potrebbe la pagliuzza del mio consiglio o del consiglio di chiunque contro questo vortice? E se io ti dicessi «fai bene, che te ne importa, mica hai bisogno del permesso». Quello che segue, lo sai, recriminazioni, scoperte, insulti, bugie, umiliazioni. o separazioni. L'eterna commedia umana. La dannazione tenere e comica del sentimento. Vedrai tu fin dove ti vuoi spingere. Prima o poi uno dei due tornerà alla ragione. E se no, affronterete tutte le conseguenze. Se il sentimento è forte, vi sposerete fra voi e tutto ricomincerà un'altra volta. Perché io non so perché. Marito e moglie vuol dire quelli che si devono tradire. Subito, appena usciti dalla chiesa o dal municipio. Ci siamo voluti molto bene con mio marito e amati con passione. Ma poi sono accadute delle storie molto pesanti di tradimenti e sue bugie e io ho troncato di netto, senza figli. Per 2 anni proprio non ho voluto sapere niente di lui, ma non perché ero in collera. Il contrario, meno lo vedevo, più riuscivo a volergli bene, perché sono di carattere ottimista e mi venivano su tutti i ricordi più belli. Poi gli amici, le cognate, mio suocero si sono messi di mezzo, perché visto che abitavamo tutti e due soli, volevano farci tornare insieme. Abbiamo ceduto, ci siamo rivisti. È stata una grande delusione per tutti e due. Ora sono sola come prima, ma anche triste. Perché la gente non si fa gli affari suoi? Io lo sapevo che mio marito era diventato un ometto, ma vederlo di faccia è stato come una ferita. Dio ci salvi dai messaggeri di pace, da quelli che con passione di artisti vogliono per forza vedere insieme le persone, vogliono tenere insieme i matrimoni. Perché loro sono affezionati a quel tipo di combinazione. Voi due in coppia piacevate. Eravate per loro rassicuranti. Eravate come il bar all'angolo o come quel piccolo laggiù che condisce il paesaggio. Sordi alla delicatezza più riposta dei vostri sentimenti, ecco che vi hanno tolto la nobile lontananza, il diritto, dopo la separazione, di ricostruire l'assente con i suoi panni migliori. Questo trastullo del dolore che lo trasforma in pietà. Però voi siete state dei tordi a cascarci. Ma perché? Perché gli avete dato retta? Forse sarete stati anche un po' curiosi l'uno dell'altro. Mica sarete così fessi da farvi soltanto sospingere dai parenti. Perché in teoria siamo forti tutti. Quando ti piglia la nostalgia, dove la metti? Sono un giovane di 55 anni. Quindi un po' più anziano della 47enne di domenica. Ultrasportivo che percorre circa 20 km al giorno, 6.000 all'anno. E quindi sono giovanile con un fisico perfetto. Faccio gare anche competitive dove mi piazzo anche bene. E amo i grandi spazi, soprattutto il deserto. Ho corso in Senegal, Tunisia, Giordania, Oman, Namibia, Gran Canaria, Boa Vista, Spagna, Croazia. Ecco mia moglie Paola. La mia adorata Paola, che è anche il mio cruccio. Ha 10 anni meno di me ed è la donna più bella del mondo. Appena sveglio la mattina penso a lei. Le starei sempre attaccato. Naturalmente per lei non è proprio così. Ha il lavoro, la casa, le figlie. E io sono l'ultimo dei suoi pensieri la sera. E veniamo alla sera. Io vorrei fare l'amore un paio di volte alla settimana. Ma a lei basterebbe una volta al mese. Tuttavia mi asseconda, anche se con un po' di fatica. Quando sono in lei, inizia un percorso che va al paradiso. E dopo pochi secondi tutto finisce. E io penso subito a quando andrò di nuovo in paradiso. Lei mi dice che invece che un uomo di mezza età sembra un adolescente in calore. A parte che mi sembra che gli adolescenti di oggi siano un po' più tiepidi di noi a suo tempo. Sarà la corsa, l'adrenalina che ne consegue, non so. Mi piacerebbe che mia moglie fosse focosa, ma non è così. Cosa ne pensi? Che sia l'età che mi fa questo scherzo, l'età che avanza e che io voglio fermare? E poi è normale che dopo 17 anni di matrimonio si ami ancora pazzamente la propria moglie e la si desideri così tanto. Adriano. No che non è normale, Adriano. È una fortuna rara e di solito capita a chi se la merita, a chi vuole bene, a chi preferisce la profondità al numero, a chi coltiva ciò che ha e se ne rallegra e non si annoia. È vero che fate due sport diversi. Lei fa quello di trottatrice doppia, casa, lavoro e via dicendo. E tu fai lo sport glorioso all'aria aperta e fai la corsa, che è parente del volo. Ma non basta questo a spiegare la differenza del vostro desiderio. Poi sai, da come lo racconti, sembra un po' che tua moglie ti faccia fare l'amore, ma che non lo faccia insieme a te. E quando dici che vai in paradiso, ma ci vai da solo o ci viene anche lei? avrai sì lo slancio erotico di un adolescente, però forse andrebbe unito al giudizio della maturità. Secondo me il modo è sbagliato, anzi è nefando. Tu assatanatissimo, lei reticente. Poi alla fine ci sta, ma forse ci sta per farti contento? Io credo che ce la dovresti portare a desiderare di farlo, che la dovresti sedurre, dovresti lasciare che sia lei a desiderarlo, perché se è come sembra dalla tua lettera, un sesso senso unico, lei alla lunga lo vede come un dovere e anche come una gran scocciatura. Lei sta già in guardia quando ti avvicini e allora forse dovresti ascoltare di più il suo desiderio e se non c'è, riuscire a suscitarlo e magari farlo un po' meno, ma farlo meglio. Dovete trovare un modo più intimo e condiviso, altrimenti siete entrati in dei ruoli fissi molto pericolosi. Tu sei quello che va all'assalto, lei è quella che resiste, quindi appena ti avvicini già alza gli occhi al cielo e quindi rischiate di non uscirne più. Tu la devi riconquistare a un erotismo cui lei sta rinunciando, lei ne sta uscendo e non è solo una questione di ritmi ma di seduzione e dovresti farlo prima che se lo dimentichi del tutto o, scusami, prima che magari lo ritrovi con un altro. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.